adesso sei. Cosa c'è? Quale luce lì nel fondo palpita? Saperlo io vorrei. Come mai la tua serenità è indecifrabile come la verità? Ma chi c'è dietro quel sorriso enigmatico? Capir di più vorrei. Dimmelo. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dimmelo mai. Ho paura che ne soffrirei troppo. Chiunque sia, non potrai dimenticarlo. Sembra che tu sia al di là di noi, un'isola persa nel mare ormai. Dove sei? Lontana, sembri quasi irraggiungibile. Capir di più vorrei. Dimmelo. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dirmelo mai. Ho paura che potrai dimenticarlo.